Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Un'educatrice agli arresti domiciliari per maltrattamenti aggravati. Altre due sospese dal loro incarico. È successo all'asilo Il Nido nel Parco, in via Francesco Scaduto, a Roma. Le telecamere installate dai carabinieri avrebbero infatti ripreso i bambini strattonati, trascinati di peso per un braccio, legati ai passeggini o costretti con la forza a ingerire cibo nonostante i pianti, e poi schiaffi, scossoni e insulti ogni volta che disobbedivano. Mio figlio la mattina era restio, non voleva lasciarmi, non voleva entrare in classe. Però da qui a pensare che ci fossero poi delle violenze o comunque delle cattiverie nei confronti dei bambini, questo no, non potevo immaginarlo. Le tre educatrici si occupavano della classe dei medi, ossia i bambini tra i 12 e i 24 mesi di età. I genitori adesso sono sconvolti e preoccupati. Mia figlia non è nella classe dei medi, ma l'ambiente è talmente piccolo che non sappiamo neanche noi che pensare. A far partire l'indagine nel febbraio scorso era stata la denuncia di alcune supplenti. Una famiglia però racconta di aver portato via già un anno e mezzo fa la propria figlia dopo aver notato comportamenti strani. Mia moglie soprattutto se n'è accorta che la bambina aveva dei comportamenti particolari. Metteva il cerotto, quando giocava con le bambole, metteva il cerotto in bocca, le scarabocchiava, la notte si svegliava, urlava. Allora, vi leggo alcune delle frasi intercettate che compaiono nelle 58 pagine di custodia cautelare che i magistrati hanno appunto composto per dare corpo a quelle che sono le presunte violenze commesse da queste maestre. Due sono state, diciamo, rimosse all'incarico, la terza è stata proprio arrestata, quella più cattiva di tutti, quella che diceva ti uccido ai bambini. I bambini erano sottoposti quotidianamente in un asilo nido comunale dove andavano bambini anche piccolissimi, questi erano, diciamo, la classe intermedia, un anno e due anni, bambini proprio piccoli, e per accanirsi contro questi bambini bisogna avere naturalmente una predisposizione, una patologia, una sorta di sadismo nei confronti dei bambini, perché normalmente non hanno ancora una capacità di determinare un carattere così forte da stabilire comunque un rapporto paritario con un adulto, era proprio cattiveria allo stato puro. Venivano con violenza schiaffeggiati e sgridati, dicono i PM, afferrati con un braccio, sollevati, trascinati per terra, sbattuti su una sedia o su un tappeto all'interno del dormitorio. In molte occasioni erano lasciati piangere. Andando avanti, venivano costretti a mangiare, trattenuti per la testa, imboccati con il cucchiaio colmo di cibo, contro la loro volontà e in lacrime, causando loro anche conati di vomito. In particolare le insegnanti si erano accanite contro un bambino. Questo qua non voleva mangiare, lo costringevano a deglutire tappandogli addirittura la bocca per costringerlo a mangiare, tanto da provocare al piccolo ripetuti colpi di tosse. L'insegnante che finita ai domiciliari lo avrebbe persino minacciato, tanto ti uccido un giorno o l'altro, un bambino di nemmeno due anni. Questo ha passato varie ore legato a un passeggino, perché gli insegnanti devono prendersi cura di lui, lo lasciano lì e lo prendevano a schiaffi. Venivano presi con forza alle spalle, venivano scossi, venivano presi a schiaffi sulla nuca, dicono i magistrati. Mentre dava schiaffi sulla nuca, colpiva un altro bambino con due schiaffi sulla schiena, addirittura una sorta di pestaggio multiplo dei bambini. Un altro bambino aveva sollevato, lanciato su un tappeto morbido, la maestra presente nella stanza, cade a quattro zampe, viene lasciato solo alcuni minuti in lacrime. Nel frattempo una delle maestre indagate inveisce contro questo piccolo lanciato in aria, riposa e stai giù, non fare la lagna. Il giorno dopo la maestra arrestata si rivolge a un altro bambino: mo ti metto pure nel cestino. Poi epiteti spregevoli, frasi agghiaccianti, deficiente, selvaggio di merda. Non erano proprio questi vezzeggiativi che le usavano le indagate quando si rivolgevano ai bambini. Dai, mangia questo cazzo di prosciutto, esclamava con rabbia una delle maestre. Ma sono delle frasi. Cambiavano un bambino con il pannolino, sei pieno di merda, e questo bambino piangeva. E se la maestra di fronte al pianto diceva tanto a te non ti vuole nessuno. Ecco, questo è accaduto in una scuola italiana. Sono mele marce? Sono casi eccezionali? O c'è qualcosa nella nostra società che non funziona, di cui la scuola è soltanto un sintomo? 800 24 0024. A tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Melog. Cronache meridiane. Calci, pugni, pizzicotti, addirittura la testa sbattuta sul banco. Continui maltrattamenti a cui quattro maestre di un asilo di Mileto in provincia di Vibo Valentia avrebbero sottoposto uno dei bambini loro affidati. Un bimbo di neanche 6 anni affetto da un ritardo cognitivo e da una iperattività che le donne probabilmente non tolleravano, tanto da scegliere di usare la violenza. Minacce, urla, schiaffi contro 15 bambini d'età compresa tra 1 anno e 3 anni e mezzo di un asilo privato. Siamo a Casarile, tra le province di Milano e Pavia, ad inchiodare le maestre e le telecamere installate dagli investigatori dopo le prime segnalazioni dei genitori dei piccoli. Un clima di terrore e disagio, come testimoniano le immagini. Per la direttrice e la sua assistente sono scattati gli arresti domiciliari. La duplice ordinanza di custodia cautelare racconta di violenze fisiche e psicologiche. I bambini erano soggetti ad un evidente stato di soggezione perché continuamente minacciati di punizioni. Le indagini sono scattate lo scorso gennaio, quando alcuni genitori si sono presentati dai carabinieri. Potremmo anche continuare con questo blog di episodi già accaduti, di cui abbiamo spesso parlato negli anni passati, ma fate una ricerca in un motore di ricerca, cercate violenze asili nido, violenze nella scuola, violenze nelle scuole materne, vedrete che le cronache continuamente riportano questi episodi. Poi, a seconda dei flussi emotivi dell'informazione, hanno maggiore rilevanza. In questo momento siamo in un trend molto percorso dagli spettacoli televisivi, dai salotti televisivi, ma anche da noi che facciamo informazione, legato a episodi di cattiva scuola. C'è stato il filone degli autistici alle gite scolastiche, l'ho trattato con serietà e con partecipazione. Ci sono stati bambini picchiati, a Latina hanno spappolato i compagni il fegato a un ragazzo disabile. Non c'è stata grande eco, probabilmente era fuori dei grandi circuiti dell'informazione, o magari non parlavano i genitori, o magari non è andata una troupe nel momento giusto. Oggi si parla con maggiore enfasi, giustamente, della scuola romana, perché siamo a Roma, siamo in una zona che dovrebbe essere controllatissima, siamo al centro del potere politico, al centro del potere spirituale del nostro paese, ma accadono episodi del genere. Voi direte, sono soltanto mele marce? Io sto leggendo con attenzione la cronaca sulla Repubblica di Roma, che con attenzione seguo di solito i fatti romani, e sto vedendo che è un po' difficile dire che è una casualità. Ci sono le testimonianze di vicini alla scuola, sentiamo le maestre urlare come aquile. Una maestra non dovrebbe urlare come aquila. Ci sono persone che hanno visto una volta una maestra dare uno spintone a un bambino e buttarlo per terra. Ci sono famiglie che hanno tolto i loro bambini da quella scuola perché sapevano che c'era qualcosa. Perché si è scoperto? Perché i carabinieri hanno messo le telecamere? Perché a fare la spiata, cioè a dire quello che accadeva, a rompere il muro dell'omertà, è stato un supplente. Un supplente ha visto una vetrata, una maestra che menava i ragazzini. Dice, ma qualcosa non funziona. Ha avvertito le autorità. Hanno fatto l'intercettazione, oggi ne sappiamo tutto. Com'è le colleghe tenevano nascosta questa cosa? Com'erano 3 maestre, non era una, un caso isolato, 3 maestre che lavoravano in gruppo, sembrava quasi che fosse il loro gioco fare questa cosa. E nessuno sapeva niente, i bidelli, i custodi, i responsabili, i genitori. È impossibile che nessuno non capisse che in quella scuola c'era qualcosa che non funzionava. Naturalmente, c'erano le psicologhe che andavano a fare, come da regolamento, le analisi e i test, il personale si occupava dei bambini. Pare che quando andavano a fare il colloquio con la psicologa erano irreprensibili, quindi totalmente lucide, non lasciano trapelare nulla di quella che era il loro comportamento patologico e compulsivo. Cos'è che non funziona in questo tipo di situazioni? Non è possibile, non è pensabile, non è immaginabile che questo accada in un paese civile. Rendetevi conto che ogni volta che vengono messe delle telecamere di intercettazione in un luogo in cui stanno persone deboli o persone non in grado di riferire le violenze che subiscono, accade sempre che si scopra qualcosa. Luca, buongiorno. Buongiorno. Senta, io non ho figli, però mi scusi la parolaccia, ma questa cosa fa veramente un po' incazzare un po' tutti. Sì, sì, vabbè. Volevo solo chiedere questo, se può essere un'idea, cioè nel senso se è così difficile da realizzarla, soprattutto non negli asili privati, perché questo mi rendo conto che è difficile, ma imporre l'obbligo delle telecamere nei luoghi comunali, negli asili comunali, sarebbe troppo difficile? Questa è una domanda. Le posso così, rispondere io senza avere esperti, perché abbiamo già toccato questo esempio, l'abbiamo sviscerato, abbiamo chiamato esperti in informatica giuridica, esperti tecnici. La telecamera in sé è abbastanza difficile trovare una maniera, un escamotage tipo giuridico sindacale per mettere una telecamera in un luogo di lavoro. Ammesso e non concesso che le persone che fanno questo tipo di lavoro accettano di rinunciare alla loro privacy, poi è praticamente impossibile osservare tutto quello che accade, viene registrato 24 ore su 24 da delle telecamere. Se mette un impianto di sorveglianza, deve mettere molte telecamere, non deve lasciare delle zone d'ombra, come nel cavò di una banca, non deve esserci uno sgabuzzino dove le maestre possano continuare a compiere quello che è la loro azione lucida, determinata. Queste menavano i bambini perché? Perché nella loro testa quei bambini andavano menati, probabilmente odiavano i bambini. È come il pedofilo che va a cercare delle professioni in cui può stare a contatto con l'oggetto della propria parafilia. Una persona sadica che odia i bambini va a fare la maestra d'asilo, probabilmente, perché è la maniera migliore per esercitare quello che è la cosa che a lei dà soddisfazione, dà piacere. Non vedo altre letture, non faccio psicologismo d'accatto, leggo i fatti e interpreto i fatti. La telecamera è molto difficile, ci vorrebbero persone pagate che stanno tutto il giorno a guardare quello che hanno registrato le telecamere. Ci sarebbe comunque delle zone d'ombra dove chi lo fa in maniera determinata, come in questo caso, continuerà a farlo. Paola, buongiorno. Buongiorno, io dicevo questa poco la stessa cosa che ha detto il signore in precedenza. L'alternativa potrebbe essere dare ai genitori la possibilità di vedere i propri figli. Questo o con telecamere installate o con, semplicemente con un telefonino che rimane acceso con FaceTime o Skype o quello che è e che controlla l'acqua. Cioè dotare i bambini di un impianto di telecamera incorporata, il bambino addosso una telecamera o un microfono. Il genitore lo metterei nella stanza dove è un bambino, una settimana uno, una settimana l'altra, si usa un cellulare con questa funzione. Purtroppo ormai non solo per i bambini ma anche per gli anziani questo problema c'è. Io sono un medico, vado a vedere anche... Ecco, proprio perché lei è un medico, Paola, proprio perché è un medico, secondo lei, non vogliamo fare letture o diagnosi a distanza, non siamo i salotti televisivi, secondo lei chi compie questi atti con questa determinatezza, questa lucidità e questo senso di callida maniera, di furbesca maniera per sfuggire alle sorveglianze, non conterebbe a farlo comunque, secondo lei? Non lo so, sono sicuramente dei malati. Si riuscirebbe a carpire qualcosa di anomalo. E poi un'altra cosa, una selezione accurata con tutti i giovani che hanno bisogno di lavorare, anche giovani psicologi, giovani maestre, dare un'alternanza a queste persone, perché dopo una certa età qualsiasi lavoro logora e quando c'è il contatto con le persone talune manifestano queste forme di violenza. Io non penso che all'inizio fossero così queste persone che hanno lavorato in questa maniera e che si comportano in questa maniera. Sicuramente non sono persone equilibrate, non sono sane, vengono da culture in cui la violenza viene praticata, non lo so, per fortuna mia penso non averne mai conosciute, o perlomeno non me ne sono accorta, però sicuramente non sono persone capaci di poter gestire un bambino o un anziano. La domanda che faccio, grazie Paola, la domanda che faccio al nostro pubblico: vi sembra possibile che queste cose avvengano senza che l'apparato in cui avvengano se ne accorga? Non vi accorgereste voi se nel vostro ufficio c'è un collega che picchia colleghi più deboli? Non vi accorgereste voi se a casa vostra un genitore picchia i figli senza che voi ci siate? Mi sembra molto difficile. Marco, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo parlare appunto di questa cosa del burnout, perché comunque tutti questi sono molto probabilmente casi di burnout. Di burnout non si parla mai. Invece spieghiamo bene, noi abbiamo parlato spesso, burnout è una sindrome che viene, che ha contatto con situazioni particolarmente stressanti legate all'accudimento di persone deboli, che a un certo punto non ti senti più adeguato, entra un senso di loop in cui tu stesso, sentendoti adeguato, agisci in maniera del tutto irrazionale. Ho detto male? No, ha detto benissimo, e però questa cosa non si parla mai. Cioè, quando no, se ne parla molto, io l'ho detto più volte. Però purtroppo se ne parla sempre in sedi che comunque non sono opportune. Cioè, secondo me sarebbe meglio prevenire che curare. Marco, no? Però in questa scuola c'era il controllo delle psicologhe, il burnout si evita, di burnout possono soffrire gli infermieri, gli operatori negli asili, gli operatori negli ospizi, gli operatori con i disabili, che a un certo punto, stando a contatto così diretto, stretto, con qualcosa che in realtà poi non si guarisce, non cambia, è sempre incessante, la gente va via di testa. Ma se nemmeno le psicologhe sono riuscite a cogliere i sintomi di burnout, secondo lei come si spiega questa cosa? È per questo che io telefono, perché comunque questo, il burnout, viene sottovalutato proprio anche dagli psicologi. Cioè, comunque io sono un operatore sociosanitario, queste situazioni le ho già vissute, per cui comunque io poi ho fatto un corso, io non sono un esperto di burnout, però un corso di burnout io l'ho fatto, sul burnout l'ho fatto, e quindi so di cosa sto parlando. Cioè il burnout viene sempre sottovalutato, cioè ci sono comunque dei segnali inequivocabili che appunto fanno vedere che si sta instaurando un burnout, e il burnout non è solo sulla persona, in burnout possono entrare anche intere strutture. Cioè, per cui questa cosa secondo me viene sottovalutata. Ecco, dice una cosa molto intelligente Marco, che essendo operatore conosce, dice il burnout è anche ambientale, cioè questo senso di sclerosi, si sclera, lo dico con un termine gergale, cioè si perde il controllo della realtà e la valutazione della realtà. L'ambiente stesso, la stessa scuola, a un certo punto potrebbe dire, lo sintetizzo, questi ragazzini che rompiscatole, che fastidiosi, che noiosi, che noia le famiglie, non ne possiamo più, li sbatteremmo sul muro, che è una lettura irrazionale che potrebbe fare una mamma esasperata in un momento di debolezza, ma se lo fa una scuola intera accade questo. 800 24 00 24, ci fermiamo un istante, a tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta l'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Melog. Cronache meridiane. Sono violenze non abbinabili a semplici scappellotti o a sgossoni di prepotenza generica. Sono violenze sul modo di ingurgitare il cibo, e posso dichiarare che i bambini venivano fatti pranzare alle ore 10:20 della mattina. Alle 10:20 i bambini venivano messi seduti, la mia bambina era in un seggiolone, e tutte le volte che cercava di piangere o di ribellarsi al cucchiaino che gli veniva ingurgitato, veniva scappellottata, gli venivano tirati i capelli, e davanti al bavaglio, con la mano di questa schifosa, 10 minuti, senza poter dire nulla. In questo video ho visto il mio figliolo che non voleva mangiare e che l'hanno presa a schiaffi. Poi l'hanno alzato di peso con un braccio così, quella tutta tranquilla e serena a prenderla a schiaffi, il mio figliolo. Acciaffate perché piangeva, non voleva mangiare, a botte in faccia. Neanche squillacciate, botte, schiaffi. Urlava, li rinchiudevano, non si sa che combinava questa gente. La devi pagare questa vita. 800 24 00 24. Attenzione, questi reperti audio non appartengono all'episodio di cronaca che oggi è toccato da tutti i giornali dell'asilo nido di Roma. No, appartengono ad anni passati, l'abbiamo preso in archivio, l'abbiamo già trasmessi altre volte che abbiamo parlato di questo caso. Abbiamo fatto trasmissioni identiche a questa almeno 4-5 volte degli ultimi 5-6 anni. Tutte le volte c'era una mamma che piangeva e che raccontava un episodio, una maestra che ingozzava il figlio con il cucchiaio, che lo strozzava, lo buttava lì indietro, lo prendeva a schiaffi, lo sbatteva per terra. Sembra quasi... Io non sono un neuropsichiatra, se uno volesse analizzare i comportamenti, rispondono tutti a una casistica, una sorta di monomania comportamentale, fanno tutte le stesse cose, li ingozzano, li sbattono, gli chiudono la bocca, li prendono a schiaffi, li insultano. Quindi non è accaduto ieri, non è una mela marcia, non è un caso isolato, non è la prima volta che si sa nella vita, Dio mio, ci strappiamo le vesti, come mai è successa una cosa del genere? No, è quasi una regola. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno. Scusi il fiatone, stavo spaccando la legna. Buon per lei, beato lei, sa quanto la invidio, ma veramente, giuro, la invidio. Con che la spacca? Con l'accetta, con la mazza, il cuneo o la con sega? L'ascia, con l'ascia. All'antica, che legna è? Sì, sì. No, è legna di faggio che uso per il camino ma anche per il barbecue. Beh, adesso si spacca bene, bella secca, adesso un momento. Sì, infatti. Complimenti. Quanta ne ha spaccata? Quanti quintali? Ma no, devo fare un barbecue, ne ho spaccati quattro ciocchi. Insomma, vabbè, fa finta, ho spaccato quattro ciocchi, pensavo chissà che. Io sono assolutamente per l'uso delle telecamere, anche perché ho un figlio di 2 anni e mezzo e una figlia di 4 anni e mezzo e sinceramente l'idea che possano fargli male, io sto tanto attento perché ho partecipato a degli incontri, non ci hanno spiegato che i metodi dei nonni non vanno più bene, perché non si danno gli sculaccioni, non bisogna alzare il tono della voce, queste cose, poi li porti all'asilo nido e te li ammazzano di botte, insomma, non è il massimo della vita. No, ammazzare botte no, fanno delle cose che non devono accadere, è una tortura, è una tortura oltre che fisica anche psicologica, certo. Che segna i bambini, quei bambini comunque che hanno subito questo, avranno dei traumi, sicuramente certo. Poi verrà fuori da qualche altra parte, in qualche altro comportamento. Ingrid, buongiorno. Ingrid, è lontana al telefono, Ingrid, si avvicina al telefono, la sento lontanissima. Sì, sono vicinissima al telefono. Ecco, adesso la sentiamo, sì. Volevo semplicemente fare questo tipo di constatazione. Non mi risulta che a Campione sul personale docente vengano effettuati dei controlli ematologici, uno per verificare che non assumano sostanze stupefacenti, due, non vengono magari prese delle posizioni nei confronti di docenti che assumano sostanze tipo benzodiazepine perché in profonde crisi depressive, al massimo vengono così inserite nel personale, tra il personale amministrativo a tempo determinato. Lei, Ingrid, ha un'esperienza tipo clinico, medico oppure... No, io ho avuto una pregressa esperienza in qualità di docente. Mi spieghi bene. Posso assicurare che, c'è sempre una sorta di reticenza, perché poi tutto dipende anche dai dirigenti scolastici, da quello che è il sistema didattico, cercare di prendere una posizione nei confronti di quei docenti che o mi vanno in sindrome di burnout, come diceva l'altro ascoltatore, oppure docenti che comunque non abbiano più un sano equilibrio a livello comportamentale, mentale, perché capisco comunque che anni e anni di docenza stressano, possono anche portare una deviazione. Però ma perché lei mi dice nello specifico di fare un controllo a Campione farmacologico? Una tantum, mi scusi. Potrebbero anche farsi, nel senso... psicologo, cioè le maestre potrebbero farsi, questo è il senso. Scherziamo. Poi oppure succedono i casi alla German Wings, col pilota che si va a schiantare che non doveva essere in turno in quella giornata. Ma farsi di cosa, scusi, per capire, potrebbero anche... Io dico, molti docenti, soprattutto nell'ambito delle primarie, sono estremamente giovani, cioè oramai l'uso delle droghe è estremamente... Lei dice, perché non tirare cocaina anche un insegnante quando lo fanno tutti ormai, si vede ma per strada? Appunto, lo fanno i medici stessi a livello ospedaliero, insomma, mi risulta che ci sia una situazione di elevata criticità e soprattutto di inaffidatezza totale. Lei, Ingrid, dice una cosa molto poco... piacevole a sentire probabilmente per i corpi, ci scriveranno i sindacati, gli insegnanti organizzati, però è giusto, gli insegnanti dovrebbero essere i primi a dirli, noi dobbiamo avere massima trasparenza, noi ci poniamo come volontari per fare questo test, per vedere se fra noi ci sono qualcuno che prende comunque psicofarmaci potenti e quindi comunque in ogni caso senza discriminazione non è adatto a gestire situazioni così stressanti, o qualcuno che proprio si faccia, se l'insegnante si fa la sua pista prima di andare a fare il suo lavoro, si prende le sue pilloline, una certa persona adatta. Lo dice un insegnante questo. Doria, buongiorno. Buongiorno, salve. Io telefono perché ho avuto un'esperienza in un centro Alzheimer e avevo una collega che era molto nervosa, era prossima alla separazione, che tendeva a pizzicare gli anziani sotto le braccia per essere seguita, insomma, faceva un po' di violenza. E praticamente poi solo attraverso l'uso di volontari questa si è limitata, io anche l'ho segnalato alla caposala eccetera. E come ha risposto la caposala? La caposala ha cercato di tenerla d'occhio, le ha parlato, però le cose le faceva di nascosto e quindi io le vedevo e anche l'altra collega le vedevamo, anche se non eravamo d'accordo glielo dicevamo. Però poi abbiamo pensato che era meglio chiedere aiuto ai volontari, in quell'occasione c'era l'AVO, venivano verso il pomeriggio, anche solo 4 ore, sollevavano un po' dallo stress la mia collega e anche noi, e in più buttavano l'occhio, vedevano un po' come ci comportavamo, era tutto più diverso. Allora, Dora, mi faccia capire bene, che là è un'esperienza importante, è giusto che ce la racconti. Può accadere in luoghi come quelli in cui lei lavora, lavorare con un anziano problematico è altrettanto difficile come lavorare con un bambino comunque, che ha comunque delle esigenze. Può esistere, diciamo, nella vostra professione che qualcuno, lo dico in termine gergale, sbrocchi, e questo sbroccare si traduce in comportamenti ossessivi e sadici nei confronti dei propri assistiti? Sì, perché non aveva gli strumenti per comunicare con loro, non riusciva a farsi ascoltare, allora lei li pizzicava, li trascinava dalle braccia e i parenti se ne accorgevano. Oltretutto, noi vedevamo che il paziente stava male, stava un po' lontano, e cercavamo magari noi di prenderlo, parlargli un po' piemontese, così tra fuori le canzoncine che piacevano a loro, e un po' si calmava anche la collega, però era una situazione che continuava da troppo. E però lei, Dora, lei mi dice, lei usava strumenti tecnici e professionali del suo lavoro, che metteva in atto una sorta di terapia comportamentale nei confronti di questo anziano per trovare un canale di comunicazione. Esatto. Però lei sa il suo mestiere, la sua collega non sapeva il suo mestiere e li picchiava, li pizzicava. Era perché si stava separando, aveva problemi in famiglia. Erano fatti suoi di suo marito, non è che delle sue corna dovevano averne un danno agli anziani. È chiaro, anche gli insegnanti hanno le loro vite, ma uno le proprie vite le lascia dietro la porta. Però il paziente Alzheimer è duro da gestire. Perché comunque è convinto di tornare a casa. Assolutamente, è durissimo. Sì, ma penso che il training costante, continuo sugli operatori e il giusto riconoscimento degli operatori in qualche maniera può ovviare questo problema. Sì. Grazie Doria, grazie. Prego, mille. Salve, buona giornata. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Stiamo cercando di capire cosa accade non soltanto nelle scuole italiane, ma anche in qualsiasi luogo in cui ci siano persone non in grado di autodifendersi, di autodeterminarsi, di raccontare quello che loro viene inflitto come ingiustizia, violenza, maltrattamento, insulto e via dicendo. Partiamo da un asilo nido romano dove è accaduto un episodio sgradevolissimo in cui è stata arrestata una maestra e due sono agli arresti domiciliari, e andiamo avanti fino a una testimonianza di un'operatrice in un centro per anziani. Ci accade anche lì che ci siano operatori che a un certo punto perdono il controllo e agiscono male nei confronti dei loro assistiti. Sono tante state le ipotesi proposte dagli ascoltatori, un ascoltatore, come già altre volte è successo, propone le telecamere di sorveglianza, un'altra operatrice dice che bisognerebbe fare dei controlli a tappeto per vedere se chi opera in circostanze così delicate assume sostanze o stupefacenti in qualche maniera che possano alterare il suo equilibrio. Mi scrive il solito saputello via SMS, continuano a chiamare dei fenomeni che non hanno minima idea dell'ordinamento italiano. Non si possono fare controlli ematologici non previsti dalla legge, è vietato. Non si possono osservare i lavoratori con telecamere, è vietato, punto. Noi stiamo dicendo proprio questo, che è vietato, ma bisogna capire se con una legge buona, che non è una legge antichissima, poi chi serve una mensa aziendale deve fare la corpocultura ogni tot mesi per far vedere che non abbia bacilli, non abbia malattie che possa trasmettere nel suo lavoro, che non è detto che le leggi possano essere cambiate. È messa in discussione la Costituzione, la legge che dice che i lavoratori non possono essere osservati. Uno può dire me ne faccio un baffo se questi operatori operano su persone deboli e indifese. I controlli, come fanno l'alcol test, potrebbero dire chi opera in situazioni del genere, comunque sia, deve avere un controllo più accurato. Vuoi fare questo lavoro, devi accettare di farti controllare in questa maniera. Stefano, buongiorno. Pronto, buongiorno Nicoletti, piacere. Senta, io sono un papà di una bambina di 5 anni, anche lei come tutti vanno all'asilo. Quello che io faccio con mia figlia fondamentalmente è, per esempio, parlo molto con lei, cerco di capire cosa fa l'asilo, cosa è successo, quali sono stati i suoi momenti positivi e quali sono i momenti negativi. Naturalmente non facendo domande aperte come è andata oggi, ma facendo una domanda: qual è stata la cosa più bella che hai fatto oggi, oppure qual è stato il momento che è stato un po' più difficile per te. Quindi andando proprio nello specifico, mai domande aperte, sempre abbastanza chiuse. E quindi ho un feedback da parte sua, la guardo quando esce dall'asilo. Devo dire questo, che la cosa che mi lascia veramente perplesso, lei mi ha anticipato, è che nella struttura nessuno si accorge, nessuno dica niente, cioè l'atto di omertà che succede all'interno di un contesto dove vengono trattati male dei bambini e, ripeto, come ha detto lei precedentemente, possono avere un disturbo che si porteranno per tutta la vita, quindi è un marchio indelebile che gli viene fatto. Quindi perché un arresto domiciliare? Perché un... No, io ahimè sono drastico, forse sbaglierò, ma io butterei via la chiave. Questa, io non mi sostituisco di solito a chi di mestiere deve giudicare e dare le condanne. Comunque Stefano dice una cosa giusta, che comunque il monitoraggio dei genitori sui bambini è importantissimo, non è che uno li lascia lì come pacchi e li riprende a casa, e se non vede i lividi vuol dire che i bambini non hanno avuto violenza. E sugli ambienti omertosi è vero, risulta che gli ambienti siano omertosi, ma è un dato di fatto. Io potrò rifare questa trasmissione tra un anno, rimandare le registrazioni, comprese quelle che riguardano questa scuola qua. Come mai continua a accadere? Filo, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, questo è il nodo. Come mai questi episodi si moltiplicano e trovano una ripetitività quasi, come dire, come le chiamano gli psicologi? Perché adesso si controlla, adesso mettono le telecamere nascoste. Coazione a ripetere. No, ma qui telecamere, sa, non è che siano frenati dopo i primi 10 giorni che si sa che ce l'ho, che come le telecamere che ci sono nelle scale dei condomini. Quello che dico anch'io, sì. Ma certo, ma poi alla fine la signora che ruba la posta la troviamo ancora anche con le telecamere, cioè non è quello, no? Io volevo solamente... Nelle banche pieno di telecamere continuano a fare le rapine, quindi... Ma certo, ma sicuro, anzi, si vedono e si rivedono e poi guarda come ero messo, guarda come c'è... Andiamo al punto, stiamo per chiudere. Il punto è questo, io ritengo che ci si nutra veramente anche di grosse schifezze, no? E per nutrimento intendo anche l'esposizione che abbiamo con i programmi televisivi, dove si mette la signorina e viene bruccata all'altezza del pube. Sì, però scusi, io... lei non insulto che fa in questo momento la sua intelligenza, mi scusi Filo. Lei è un insegnante di sostegno, leggo, e va bene, mi parli di casi concreti, non dica che è la passera col pelo che si vede in televisione per cui le maestre picchiano i bambini. No, il legame è più profondo, signor Nicoletti, scusi. La faccio parlare, se no dicono che taglio gli ascoltatori. Ci si nutre di cose malsane che modificano i nostri comportamenti, queste frasi che vengono... Perché scusi, negli asili con le suore non succedono le stesse cose. Ma come no? Ma qui io non faccio... Non è che le suore fanno vedere il pelo, però picchiano uguale. No, deve avere un po' la pazienza. L'ascolto. Allora, il discorso è una serie di alimenti nocivi a livello sociale, che sono le trasmissioni televisive, le signore che si insultano, questi addirittura lei ha proprio trasmesso il verbale, diciamo, delle frasi date dalle insegnanti. Queste stesse frasi, sporco di merda, queste cose qui, le abbiamo ritrovate, non sono altro che una ripetizione, e torno prima, quello che ho detto, coazione a ripetere, la chiamano gli psicologi, che è quella che induce con un clima sociale. Se lei pensa che hanno potuto diciamo accogliere le istanze dell'assassino della Norvegia, un assassino conclamato, dove lui ha potuto portare avanti... Filo, l'ho fatta parlare, l'ho dato un minuto, sto per chiudere, adesso basta. Sta enumerando, mi scusi, una serie di banalità che non hanno nulla a che fare con quello di cui stiamo parlando. Se così fosse, tutte le maestre del mondo dovrebbero picchiare i bambini e insultarli. Sta accampando delle scuse e giustificazioni. Probabilmente lei difende il suo ruolo di insegnante di sostegno. È una maniera sbagliata, non è questa la maniera per aiutarci a collaborare a... parlare comunque serenamente di un problema. Poi mi dicono che sono io che taglio gli ascoltatori. Lorenzo dice che la selezione degli insegnanti, il problema andrebbe cambiato il criterio. Non faccio parlare Lorenzo semplicemente perché mancano 20 secondi e non l'altro da dire. Mi dispiace aver chiuso con un insegnante a cui ho tolto la parola, ma non trovavo giusto continuare a elencare le solite banalità, che è colpa della cattiva televisione, dei giornali, del malcostume, perché accadono queste cose. Se fosse una società asettica in cui ci fosse censura di tutte queste cose, come sono i paesi islamici oltranzisti, non credo che certe cose non accadrebbero lo stesso, magari ne accadrebbero di peggiori. Alla prossima.